Simone Spezia. Letta accogliere dimissioni di De Girolamo e assume l'interim dell'agricoltura, smentito per il momento il ritorno con Silvio Berlusconi. È appena scaduto il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Il giorno della memoria, in ricordo delle vittime dell'Olocausto, parla Napolitano, le minacce agli ebrei a Roma sono miserabili provocazioni, due fermati per le scritte antisemite. In Ucraina è ancora occupato dai manifestanti il Ministero della Giustizia. Il ministro Bonino a Radio 24, la posizione di Yanukovych è insostenibile. Presto, fa sapere il Premier, la firma degli accordi con la Russia. Ancora una giornata di tensione sui mercati, preoccupa tra l'altro la situazione valutaria di Turchia e Argentina. Oggi la lira di Ankara ha i nuovi minimi storici. I Grammy che premiano anche il passato, miglior disco rock quello delle Zeppelin, miglior disco metal ai Black Sabbath, mentre la miglior canzone rock è di McCartney, per il resto trionfo dei Daft Punk. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete commentarle lo potete fare al 349-238-6666 via SMS sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Oltre a quello che avete sentito nei titoli, ci collegheremo con Modena. Abbiamo promesso di tenere acceso un riflettore sulla situazione dopo l'esondazione del Secchia e i tanti problemi che sta vivendo quell'area. Ci collegheremo con la nostra inviata e poi parleremo con gli industriali. E prima di andare alla politica, una notizia che arriva da Lecce: sono due le persone morte nel crollo di un pavimento di un'abitazione fatiscente in via Taranto, siamo appunto a Lecce, lo ha confermato il procuratore della Repubblica. I corpi che saranno recuperati una volta svuotata la cisterna di acqua piovana in cui sono precipitati, insomma, sono messi molto male, ha riferito Motta. Noi adesso veniamo appunto alla politica. In apertura sta parlando tra l'altro in questi minuti Matteo Renzi su tutta la situazione, tanto la legge elettorale quanto il caso De Girolamo. Iniziamo dallo stato del governo con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Dimissioni, quelle della De Girolamo, accettate questa mattina dal Presidente del Consiglio Letta, che ha assunto l'interim del Dicastero dell'Agricoltura. Il passo indietro dell'esponente del nuovo centrodestra apre di fatto la strada per un rimpasto dell'esecutivo. Palazzo Chigi preme per un riequilibrio della rappresentanza nella maggioranza che possa dare una boccata d'ossigeno allo stesso Letta e che lo porti senza tante difficoltà nel semestre europeo a guida italiana. Ecco perché le dimissioni della De Girolamo arrivano nel momento giusto, secondo molti osservatori. L'esecutivo non avrebbe retto ulteriormente all'urto di tiri incrociati sul ministro e su altre questioni spinose. In questi minuti il Presidente del Consiglio Letta sta incontrando qui a Roma il Premier spagnolo Rajoy e non è escluso che possa intervenire su questa vicenda. A rendere l'onore delle armi al ministro dimissionario è intanto dal suo partito Angelino Alfano. Non condividevo le sue dimissioni, ho provato invano a trattenerla, ma la testa dura ha insistito ad andare avanti, spiega Alfano. Sull'ipotesi invece di un ritorno della De Girolamo in Forza Italia interviene Paolo Romano. No alle porte girevoli in politica, dice l'esponente berlusconiano. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Ed è scaduto esattamente 3 minuti e 24 secondi fa il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Si scade in questo momento il termine per gli emendamenti della legge elettorale qui alla Camera dopo l'approvazione, ricordiamo, venerdì del testo base in Commissione Affari Costituzionali. Questa legge elettorale, spiega il segretario PD Matteo Renzi, non può saltare per uno 0,5%. Ci saranno tantissimi emendamenti, è ovvio, ci confronteremo con tutti. Lo scopo è trovare l'accordo, complicato ma possibile. Prenderemo il buono che viene dalle forze politiche. Se si affossa la legge elettorale è difficile. È difficile pensare ad uno spazio di speranza per questa legislatura, ma io sono ottimista, precisa Renzi. Intanto il gruppo PD presenta 22 emendamenti unitari, mentre per quanto riguarda Forza Italia il partito di Berlusconi smentisce di volere elezioni anticipate, ma continua a ribadire che l'accordo Renzi e Berlusconi non si tocca. Chiede anche che le circoscrizioni elettorali siano disegnate dal Parlamento e non dal Governo. Il nuovo centrodestra preme invece per le preferenze sul sistema tedesco. Il Movimento 5 Stelle anche vuole le preferenze e pone il veto sui condannati in lista. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Oggi il giorno della memoria. con eventi istituzionali, mostre e concerti in tutta Italia, oggi si commemora la tragedia dell'Olocausto nella giornata della memoria. Al Quirinale la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Nel suo intervento il presidente Napolitano ha espresso la sua ferma condanna per gli atti di antisemitismo avvenuti nei giorni scorsi a Roma. Le teste di maiale indirizzate alla comunità ebraica e all'ambasciata di Israele, una miserabile provocazione, l'ha definita il capo dello Stato. Gli autori, che spero possano essere rapidamente individuati, di un insulto assimilabile solo alla stessa repugnante materia usata in quei pacchi, non hanno nulla a che vedere con la Roma e i romani che, per sentimento umano e civile, consapevolezza democratica, educazione e cultura, sono fraternamente accanto agli uomini e alle donne di origine e religione ebraica. Presente alla cerimonia anche il premier Letta, secondo il quale la giornata di oggi rappresenta un fermo richiamo alla vigilanza contro ogni rigurgito di negazionismo e antisemitismo, ma anche contro il male dell'indifferenza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Al mattino si lavora, poi sentiamo le nostre famiglie, nel tardo pomeriggio facciamo ginnastica. Questo è il racconto di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone alla commissione parlamentare, al gruppo di parlamentari che sono andati a trovarli in India. Non immaginate, hanno detto i militari, quanto sia importante per noi questa missione, proprio per il suo carattere unitario, perché ci fa sentire la voce dell'Italia. Katia Caramelli ha sentito il presidente della commissione esteri della Camera, Fabrizio Cicchitto, ascoltiamo. Li abbiamo trovati in uno stato d'animo di grande lucidità e grande determinazione. Il tutto si svolge all'ambasciata italiana con un ambasciatore esperto che sta lavorando al meglio in una condizione difficile, pregiudicata anche da una catena di errori fatti dall'Italia nel passato, ma su questo torneremo dopo, quando la vicenda mi auguro che sia conclusa positivamente. Un'operazione che serve a far sentire agli indiani la profondità degli errori che hanno commesso, insomma, ecco. Cicchitto, in vista del 3 febbraio quali sono le aspettative? Inutile metterci sulle aspettative, ci auguriamo che vada al meglio, anche perché va detto che qualora ci fosse una inclinazione del terrorismo, la questione diventerebbe gigantesca, subirebbe, questo gli indiani devono saperlo, una inevitabile internazionalizzazione, perché accusare di terrorismo dei militari che stavano a difesa di una nave contro la pirateria è una cosa assolutamente, diciamo così, assurda, e questo porterebbe a una internazionalizzazione inevitabile che forse già ci dovrebbe essere stata. Restiamo all'estero per parlare della situazione in Ucraina, dove la tensione resta altissima. C'è stata l'occupazione del Ministero della Giustizia che, se non erro, non è stato ancora sgomberato. Antonella Scott. Sì, buongiorno, hai ragione, non è stato sgomberato, e questo è questa è un po' la dimostrazione di come ormai i leader della protesta non riescono a controllarla veramente, o perlomeno non riescono a controllare tutti i gruppi, perché uno di loro, insomma il più noto tra loro, Klitschko, aveva chiesto lo sgombero del Ministero della Giustizia. Tra l'altro il ministro Lukács ha avvertito che se i dimostranti non lo lasceranno chiederà lo stato di emergenza. Quindi un'altra giornata, l'ennesima di tensione a Kiev, l'ennesima vigilia poi, perché domani sarà ancora più importante la giornata, perché è prevista la sessione della Verkhovnaya Rada, cioè il Parlamento, che deve votare una mozione di sfiducia al governo e l'abolizione delle leggi che criminalizzano la protesta. Quindi da lì si capirà un po' che come si stanno spostando gli equilibri tra i deputati, ora che le manifestazioni da una parte sono sempre più radicali a Kiev, ma intanto si espandono anche nel resto del paese. Antonella, tu che conosci il paese, abbiamo sentito evocare in queste ore l'espressione guerra civile. Quanto è possibile uno scenario di questo genere per l'Ucraina? Purtroppo ormai sembra possibile, perché è come se diventasse sempre più stretta la rosa delle alternative. Dopo che sabato sera il presidente Yanukovych ha dato ai capi dell'opposizione, a Yatsenyuk e a Klitschko, la possibilità di entrare nel governo, l'offerta è stata respinta perché evidentemente loro, i capi dell'opposizione, l'hanno letta come un segno di debolezza da parte del presidente. Hanno alzato il tiro, dicono che sono in grado di governare ma senza Yanukovych. Quindi a questo punto il paese è un po' di fronte a o Yanukovych accetta di farsi da parte, oppure c'è davvero questo rischio di una repressione violenta che quindi può portare a una guerra civile. Forse si capirà meglio domani, a seconda di come affronta la cosa il Parlamento, se non c'è un segno di disponibilità, un compromesso, purtroppo la via d'uscita rimane una sola. Grazie ad Antonella Scotta e saluto Pino Arlacchi, eurodeputato, membro della Commissione Esteri e Sottocommissione Diritti dell'Uomo del Parlamento Europeo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Non è che l'Europa li sta lasciando un po' soli, questi manifestanti, queste persone che protestano e che chiedono Europa? Ma guardi, che chiedano Europa in questo momento non mi pare proprio. E cioè? La piazza è finita in mano a estremisti di ispirazione nazista e neonazista, oltre che ai nazionalisti del partito Svoboda, i quali dell'Europa non credo gliene importi molto. E però rimane una parte di manifestanti e di persone favorevoli all'accordo con l'Unione Europea, anche se vogliamo in una chiave strategica di allontanamento dalla Russia. Guardi, favorevole all'Unione Europea significa che devono essere favorevoli anche ai metodi e ai valori dell'Unione Europea. Andare in piazza armati e sparare e saccheggiare e distruggere edifici pubblici e poi pretendere che il governo faccia quello che loro dicono non mi sembra molto europeo. E quindi Arlacchi, mi sembra di capire che la sua posizione è a favore del governo ucraino. No, non sono a favore del governo ucraino, ma non mi piace, non cado nel tranello di pensare che una piazza che pretende con la forza di cambiare deliberazioni di un Parlamento democraticamente eletto, perché le elezioni in Ucraina le abbiamo osservate noi e sono state elezioni regolari, questo fatto che una piazza con la forza pretenda di cambiare le regole del gioco democratico non mi può piacere. Possono chiedere delle nuove elezioni, possono chiedere la caduta del governo, possono chiedere tutto quello che è giusto chiedere, ma devono farlo con metodi coerenti con le regole della democrazia. Arlacchi, ultima domanda. Questa mattina il ministro Bonino, ospite di Alessandro Milano a 24 Mattino, più avanti sentiremo l'intervista, ha detto che la posizione di Yanukovych è insostenibile. Lei che dice? Ma io direi che dovremmo cercare di interferire molto di meno nelle faccende interne degli altri paesi. Questo intervento dell'Europa in Ucraina è stato disastroso perché ha diviso il paese, ha fomentato tutta la parte antirussa del paese contro l'altra metà del paese che è filorussa, senza avere in mente niente di preciso se non quello di una continuazione della guerra fredda. Ho sostenuto e continuo a sostenere insieme a tanti altri colleghi che spaccare un paese in questo modo non è coerente col messaggio europeo, non fa gli interessi dell'Europa e che occorrerebbe fondare una nuova politica verso l'est, basata sul dialogo e l'inclusione anche della Russia, invece che comportarsi come se fossimo ai tempi della peggiore guerra fredda. Grazie a Pino Arlacchi, eurodeputato, membro della Commissione Esteri del Parlamento Europeo. E noi restiamo all'estero. Più avanti vi daremo gli aggiornamenti dai mercati. Mercati che risentono ancora dell'andamento dei problemi che si stanno registrando in una serie di paesi emergenti o ex emergenti, come vogliamo definirli. I problemi di crescita economica in Brasile, i problemi valutari in Argentina, nella stessa Russia tra l'altro. Oggi una nuova caduta del rublo e dei problemi valutari anche in Turchia. C'è con noi Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Che è appena tornato da Istanbul, tra le altre cose, e ha intervistato tra l'altro il presidente turco Gül. Allora, ci riesce a dare brevemente un quadro della situazione turca dal punto di vista economico? Ma guarda, il presidente Gül ha detto che si tratta di una fase congiunturale della crisi turca e si dice fiducioso che prenda presto una svolta di nuovo positiva l'economia turca, ma la realtà è che qui la crisi è politica, non soltanto economica. Dall'inizio della Tangentopoli sul Bosforo nel dicembre scorso la moneta turca, la lira turca, ha perso il 10%. E da maggio, dopo gli avvenimenti di Gezi Park, vi ricordate la dura repressione delle manifestazioni contro il governo del primo ministro Erdogan, ecco, da allora la lira ha perso quasi il 30%. Insomma, ci sono problemi economici, certamente, ma anche politici. Quelli economici sono essenzialmente legati a uno squilibrio della bilancia dei pagamenti turca, al fatto che alcuni capitali, soprattutto quelli a breve, sono andati in fuga dal paese, alle iniziative che ha preso il tapering famoso della Federal Reserve, che ha tolto stimoli monetari ai mercati, e poi c'è questa crisi politica che evidentemente incide parecchio sulla situazione. Grazie ad Alberto Negri per questa analisi. Noi ci fermiamo, c'è la viabilità, c'è già qua in studio con noi Dario Ricci. Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, Simone. Eccoci qua, parleremo di calcio, oggi ultimo giorno di mercato, l'Inter in sofferenza e poi magari vedremo se avremo il tempo. No, non è l'ultimo giorno di mercato. No, finiamo con gennaio. Finiamo con gennaio. No, la tua Roma cioè, deve aver tempo di comprare qualche altro campione perché siete nell'inseguimento, ancora staccati e quindi vedremo di servono altri campioni. Dopo ci stuzzichiamo. Vedremo di battagliare anche su questo dopo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È scaduto da poco il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Parla Renzi, dice: se la nuova legge viene affossata è difficile pensare uno spazio di speranza per questa legislatura. Sulle dimissioni di De Girolamo e sul possibile rimpasto dice: non partecipiamo a discussioni da Prima Repubblica. Il giorno della memoria, il ricordo delle vittime dell'Olocausto, parla Napolitano. Le minacce agli ebrei a Roma sono miserabili provocazioni, ci sono stati due fermati per scritte antisemite. L'Ucraina è ancora occupato dai manifestanti, il Ministero della Giustizia, il ministro Bonino a Radio 24, la posizione di Yanukovych è insostenibile. È ancora una giornata di tensione, ve ne abbiamo parlato poco fa, sui mercati, preoccupa tra l'altro la situazione valutaria di Turchia e Argentina. Oggi la lira di Ankara ha i nuovi minimi storici. E ultima notizia, appena battuta dalle agenzie, oltre 30.000 dipendenti e pensionati della regione Sicilia sono senza stipendio. Il bilancio non è ancora stato pubblicato in Gazzetta, mentre l'impugnativa della finanziaria ha lasciato da parte del commissario di Stato, ha lasciato senza fondi enti e consorzi regionali. E adesso parliamo di calcio. Dario Ricci, eccoci qua. Eccoci qua, Simone, ben ritrovati. Eccoci, allora, in un Inter, poi verremo a Juve-Roma, Inter in crisi nera, in realtà poi sono quinti in classifica, manco malaccio a dire il vero, No, però è chiaro che il distacco è significativo, la Champions è un miraggio. A proposito di bilanci, probabilmente in queste ore, in questi minuti, Erik Thohir, il presidente sbarcato ieri dall'Indonesia, è alle prese proprio in un vertice di gruppo, di club, per sciogliere i nodi finanziari che da un lato impediscono interventi significativi sul mercato, dall'altro frenano anche le prospettive sul medio termine, quindi sicuramente in un ambiente surriscaldato da quello che è stato l'affair Vucinic-Guarin, ieri è andata in scena a San Siro forse la peggiore Inter e forse non solo di quest'anno. Juve-Roma in lotta, insomma, lievemente più aperta, mi sembra di dire. Io non mi sbilancio perché sono scaramantico, però la beh, cosa, cioè, mi sembra lievemente più aperta. D'altra parte, ce lo ricordiamo tutti, no? Non succede, ma se succede, di quella rincorsa sfortunata allo scudetto della Roma di Ranieri con l'Inter di Mourinho. La matematica, e non solo, dice che tutto è possibile. 6 punti, mancano ancora tantissime partite e questa Roma c'è. Ha il solo impegno del campionato, a dispetto della Juve che adesso ha sì l'Europa League, ma che non può snobbare perché c'è la finale a Torino. Quindi perché non sognare, perché non crederci con questi giocatori, con un Gervinho così, un Totti sempre pronto? Io sogno e credo e spero che vi scavalleremo, insomma, ci proviamo. Ma sì, tu sogna, dai, che poi qualcosa succede. Grazie Dario Ricci, buona giornata. Noi parliamo adesso di musica e parliamo dei Grammy. Awards 2014, la canzone che state ascoltando è il miglior pezzo rock, Cut Me Some Slack, firmato da Paul McCartney. Poi che cosa c'è? C'è il miglior disco rock, che è dei Led Zeppelin, c'è il miglior disco metal, che è dei Black Sabbath, ci sono i Daft Punk, che certo non fanno musica da anni 2000, insomma, premiati in tanti, ma l'idea è che ci sia qualcosa che arriva dal passato. Si è parlato anche italiano, merito di Ennio Morricone, che ha ricevuto il Trustees Award 2014 per il suo contributo musicale al cinema e alla televisione. Il commento su questi premi di Paolo Giordano, de Il Giornale, lo ha intervistato Adriana Fracchia. Senza dubbio gli esordienti sono meno di quello che mi sarei aspettato. Devo dire che un premio simbolico è quello consegnato a Paul McCartney come miglior brano rock. Se uno pensa che Paul McCartney ha iniziato la carriera 50 anni fa, è un po' difficile immaginare che in un intero anno solare non ci sia stato nessuno capace di fare un brano migliore dal punto di vista del rock. E quindi da questo aspetto si capisce che non è stato un 2013, diciamo, estremamente creativo e innovativo. Certo, Lorde ha vinto e ha confermato di essere la rivelazione pop dell'anno, senz'altro. E poi, certo, io tra tutti i commenti che si possono fare, forse il commento decisivo è il fatto che c'è stata una foto durante questa edizione dei Grammy, che è quella di Paul McCartney con Yoko Ono e Ringo Starr insieme. Ecco, io credo che 50 anni dopo, in qualche modo, la storia dei Beatles si è conclusa e si è celebrata definitivamente sul palco dei Grammy Awards. Si è chiuso un ciclo che non significa che i Beatles passino di moda o che non sono più capaci, ma Yoko Ono e Paul McCartney insieme io credo che sia in qualche modo un simbolo di ciò che è successo e di ciò che rappresenta questa edizione. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. E invece questo è della giovanissima vincitrice per il premio come miglior pezzo. Noi adesso vi abbiamo promesso che avremmo tenuto i riflettori puntati su Modena, sulla zona del modenese. Dopo il terremoto di 2 anni fa, l'alluvione, l'esondazione del Secchia, che ha creato, senza che si accendessero così tanti riflettori come appunto 2 anni fa, che ha creato moltissimi problemi. Naturalmente non vittime, ma moltissimi problemi. È di questo che vogliamo parlare. C'è la nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella, ti trovi a Bonporto, no? Uno dei comuni più colpiti. Buongiorno. Buongiorno Simone, sì, sono a Bonporto, nella zona industriale in questo momento, che è proprio una delle zone che è stata più danneggiata dall'alluvione della settimana scorsa. Giovanni Messori, direttore di Confindustria Modena, benvenuto e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Salve, avete già fatto una stima dei danni, Messori? E noi abbiamo lì circa una trentina di imprese industriali colpite dall'alluvione e sicuramente i danni sono superiori ai 10 milioni, anche perché l'acqua ha stazionato alcuni giorni ed è defluita solo ultimamente. Solo questo, mi scusi, solo a Bonporto o in tutta l'area colpita dall'alluvione? Naturalmente le aziende sono molto di più, queste sono le nostre associate, la regione in questo momento attraverso delle schede che ha pubblicato sui propri portali, sta facendo la stima dei danni complessivi. La maggior parte delle aziende è proprio a buon porto. Maggior parte delle aziende a buon porto. Abbiamo letto nei giorni scorsi che ci sono una serie di aziende che stanno cercando di intentare una sorta di class action, Messori, nei confronti, immagino, non si sa per il momento, un mandato esplorativo ad un avvocato di chi ha gestito tutto questo, di chi ha gestito il territorio. Che cosa ne pensate? Dunque, guardi, adesso noi su questo punto parleremo con le aziende, vedremo. In questo momento la cosa più importante è ripartire, con una burocrazia che speriamo sia molto più semplice rispetto a quello che è stato ed è col terremoto. Il Presidente della Regione ha dichiarato che i danni verranno rimborsati al 100%, questo è importantissimo. È chiaro che il fatto che in un rettilineo a 100 metri di argine si sbriciolino come neve al sole ci fa riflettere, dovranno essere valutate le responsabilità e con calma valuteremo se sarà opportuno o meno a dire anche le vie giudiziarie. Ultima domanda che le faccio, Messori, e poi andremo dalla nostra Raffaella Calandra, che tra l'altro è con un imprenditore. Voglio capire se chiedete una sospensione dei tributi per le aziende colpite. Guardi, questo paese è ben strano. La sospensione per 6 mesi è già stata decretata, è un termine assolutamente insufficiente, come è avvenuto per il terremoto, poi io auspico verrà prorogato ulteriormente, ma questa gente che è stata colpita 2 volte così violentemente in poco tempo non merita di rimanere nell'incertezza. Bastava dire che la proroga è almeno per 1 anno e bastava anche dire, come stiamo anche facendo, che si sta lavorando anche a una moratoria dei mutui. Grazie a Giovanni Messori, direttore di Confindustria a Modena, e adesso parliamo invece con la nostra Raffaella Calandra. Sei con un imprenditore, Raffaella, alla fine oppure no? Sì, sono con il presidente della Dynamic Oil, Carlo Alberto Montecchi, qui proprio alla Dynamic Oil, nella zona industriale di Buonporto, dove in questo momento sono ancora tutti alle prese con il tentativo di eliminare l'acqua, di ripulire, di ripartire dopo una settimana con tali danni, diciamo, dovuti all'alluvione. La prima cosa che mi ha colpito arrivando in questa zona sono tutti i cumuli di suppellettili, di mobili che lungo la strada sono il segno dell'alluvione, ed infatti poco fa, parlando con una signora, mi ha detto la nostra vita in questo momento è sui marciapiedi, perché le case hanno praticamente portato sulla strada tutto ciò che hanno dovuto buttare oppure che in questo momento si è danneggiato per il livello dell'acqua, che è arrivata ad un livello molto alto. Qui alla Dynamic Oil, dove sono io adesso, l'acqua era arrivata a circa 30 centimetri, e asciugata l'acqua resta il fango, resta la polvere e resta il segno appunto di quell'acqua che ha danneggiato non pochi macchinari, e quindi si sta ora, diciamo, lavorando per ripartire. La preoccupazione, giusto Presidente Montecchi, è quella di essere puntuali con i propri clienti, perché già erano stati, diciamo, anche pazienti con il terremoto, e adesso in questo momento c'è anche l'alluvione da dover spiegare. Sì, il problema più grave ora è quello di accontentare i nostri clienti, nel senso di dare loro dei programmi di consegna affidabili, in modo che possano programmare poi i loro impegni. Sicuramente è stato un momento molto, molto difficile, un momento in cui in certi momenti abbiamo anche pensato così di perdere l'attività, in quanto i tempi di recupero potevano essere molto lunghi. Per fortuna i nostri dipendenti sono dimostrati molto attivi, disponibili, siamo entrati subito dopo 2 giorni con un centinaio di persone a pulire con tutti i mezzi di fortuna, insomma siamo riusciti a ripartire, oggi siamo al 60% circa della produzione, della possibilità produttiva dell'azienda, e nel giro di 3-4 giorni dovremmo essere al 100%. Ecco Simone, come diceva prima il direttore di Confindustria, qui c'è però anche molta rabbia per quello che è successo, perché l'argine ha rotto in un punto il rettilineo, e quindi qui tanti raccontano di aver più volte denunciato, soprattutto all'autorità che si occupa qui del bacino e poi anche al sindaco, la scarsa manutenzione manutenzione nei confronti dell'Agin. Una preoccupazione è quella delle alluvioni, che è una zona che si chiama Bassa Modenese, è già insita nel nome. Ecco, lo richiedo anche proprio al presidente della Dynamic Oil, cioè anche voi avete questa preoccupazione, siete arrabbiati perché quegli argini non sono sufficientemente curati. Evidentemente per noi questo è stato un danno che poi si aggiunge anche ai problemi avuti col terremoto di 2 anni fa, e quindi siamo veramente preoccupati da questa situazione, perché noi viviamo in un territorio in cui abbiamo 2 fiumi, il Secchi e il Panaro, che sono distanti pochi chilometri l'uno dall'altro e con un livello delle acque nei fiumi che normalmente è 5-6 metri superiore al livello della pianura, per cui non è neppure ipotizzabile che possa pensare di un argine che si rompe. In pratica il Secchi ha così esondato per 3 giorni il 70-80% della sua portata nel territorio, quindi è una cosa impossibile questa da accettare. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Le vicende dell'Ucraina, la vicenda dei 2 Marò e non solo. Sentiamoci un estratto dell'intervista di questa mattina del nostro Alessandro Milan al ministro degli esteri, Emma Bonino. La cosa più urgente per chi come me pensa che questo sia lo scenario possibile è invece insistere sul accesso umanitario, perché nel frattempo, mentre ci si riunisce in molte parti, arrivi qualcosa di tangibile immediatamente al popolo siriano che è stremato da 3 anni di guerre e bombardamenti. C'è il minimo indispensabile che si riesce a fare questo in questo e momento. E quindi questo è un primo segnale, devo dire, che necessita ancora di qualche passo in più. È chiaro che bisogna insistere ancora molto per arrivare, secondo me, ad un cessate il fuoco più generale. Ecco, altrimenti ci si chiede tra l'altro quale futuro per la Siria. Gli americani hanno ribadito: nel futuro della Siria non c'è posto per Assad. La linea dell'Italia qual è? Noi crediamo che siano gli stessi 2 delegazioni che devono decidere. Certamente la posizione di Assad, con le ultime documentazioni che stanno uscendo di torture, è davvero insostenibile, ma credo che questo debba arrivare alla fine del processo negoziale, e dagli ultimi contatti che io credo che di questa questione e del governo di transizione si cominci a parlare. Cioè, sta dicendo oggi, che Assad comincia anche a pensare a una sorta di fuoriuscita, di negoziare. Ma credo anche che gli stessi alleati di Assad comincino a porsi essi stessi dei problemi. Senta, venendo all'Europa, preoccupa moltissimo la situazione in Ucraina. Ha senso che un presidente così rimanga? Evidentemente per le decisioni prese, per la repressione usata, per le leggi promulgate, anche se ieri c'era un'apertura al ritiro di quelle leggi, pone Yanukovych ovviamente in una situazione quasi insostenibile. Domani o dopodomani ci sarà il vertice Unione Europea-Russia e io credo sarà quello anche un'occasione per continuare la pressione che stiamo facendo a tutti i livelli per una soluzione, intanto perché appunto si ponga fine, cioè, perlomeno alle violenze e al tipo di repressione. Senta, mentre stiamo parlando, ci sono una delegazione di parlamentari, proprio in questi stati stanno parlando con i Marò. Sì. Molti giornalisti anche chiedono e imputano all'Italia una linea troppo debole, troppo sulla difensiva, e chiedono una maggiore aggressività diplomatica ovviamente per risolvere la situazione. Sì, non ho mai capito bene cosa voglia dire. Quello che io so è quello che noi abbiamo fatto, ed è stato quello non solo da una parte di, una volta rimandati però in India ovviamente, presa da altri e da altro governo, di seguire tutte le strade possibili, anche quella di coinvolgere l'intera Europa, non era proprio facilissimo, gli stessi colleghi europei sono convinti del fatto che in una situazione in cui dopo 2 anni non c'è neanche il capo d'accusa per 2 militari che certamente non sono terroristi di tutta evidenza, ma rappresentavano in base ad una legge più che discutibile su cui come radicali votammo contro, io credo invece che la nostra linea sia stata molto coordinata, senza slabbrature. I nostri Marò sono seguiti dall'avvocatura dello Stato, oltre che dai più importanti legali indiani. Io credo che questa era la strada da tenere. Da seguire. No, insomma, evidentemente la situazione è molto complicata. Sui tempi io glielo chiedo tutte le volte, lei mi dice sui tempi è l'ultima cosa che si possono fare. Quello che io so adesso è che il nuovo ricorso che abbiamo fatto verso la Corte Suprema ha riordinato alle autorità indiane di produrre il capo di imputazione in modo che possa iniziare il processo entro il 3 febbraio. È il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, dedicata al giorno della memoria. e a quanto pare invece abbiamo qualche problema a trasmetterla. Chiedo a Paolo Corleoni se siamo pronti. Ci siamo, via. Andando a una scuola pubblica dove io andavo, dove avevo fatto la prima e la seconda elementare, non sapevo di essere una diversa. Così Liliana Segre, il 27 gennaio 1945, il campo di concentramento di Auschwitz viene liberato dalle truppe sovietiche. 7.000 prigionieri sono ancora in vita, malnutriti, affamati, ammalati, praticamente larve umane che aspettano la certa morte. I soldati russi trovano fosse comuni con corpi decomposti, indumenti abbandonati, 8 tonnellate di capelli umani imballati e pronti per essere spediti. Nulla a confronto delle centinaia di migliaia di persone che sono state sterminate ad Auschwitz, Birkenau, Belzec, Chelmno, Dachau, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Mali-Trostenets, nei 1000 campi disseminati in Germania, Polonia, ebrei, slavi, deportati politici europei, rom, diversamente abili, omosessuali e militari, 6 milioni di morti, solo ad Auschwitz tra 1 e 2 milioni di persone. Da 2000 il Parlamento italiano ha istituito il 27 gennaio come Giorno della memoria. Scrivono gli estensori della legge: la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. E da quel giorno intorno ad oggi, cioè intorno al 27 gennaio, si organizzano rassegne, incontri con testimoni, concerti, spettacoli teatrali, progetti, proiezioni cinematografiche dove i protagonisti restano sempre i superstiti, quelli che sono riusciti a salvarsi dalla furia ideologica dei nazisti, dei fascisti e dei pubblichini di Salò, complici dell'Olocausto per aver promulgato, lo ricordo, le leggi razziali del 38. Quando questi testimoni se ne andranno per sempre, chi racconterà alle nuove generazioni il peso di quell'orrore? Non bastano i buoni libri lasciati dai protagonisti, le testimonianze scritte e orali del passato. Oggi forse serve costruire una memoria del presente, perché nonostante lo sforzo di associazioni, comuni, singoli cittadini, poco o nulla di queste terribili pagine della nostra storia contemporanea sono scritte sui libri di testo dei nostri studenti, perché in Italia almeno 600.000 persone aderiscono a gruppi politici della destra estrema che si ispirano ancora oggi direttamente alle ideologie naziste e fasciste, perché non si contano gli atti vandalici contro le stele di partigiani, contro lapidi che ricordano stragi ed eccidi, svastiche e simboli nazisti sui muri delle nostre città. Una memoria del presente che possa trasformare il ricordo nell'azione culturale. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Se si affossa la legge elettorale, fine legislatura, dice Renzi. Letta accogliere dimissioni di De Girolamo e assume l'interim dell'agricoltura. In Ucraina è ancora occupato dai manifestanti il Ministero della Giustizia. Bonino a Radio 24. La posizione di Yanukovych è insostenibile. Il giorno della memoria, in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Napolitano, le minacce agli ebrei a Roma sono miserabili provocazioni. Ancora una giornata di tensione sui mercati che poi recuperano. Preoccupa tra l'altro la situazione valutaria di Turchia e Argentina. È il momento di Mario Platero e di America 24, ci parla dei Grammy oggi. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And the Grammy goes to Daft Punk. I Grammys, Grammy Awards, i premi per la musica leggera, ieri notte, grande serata, devo dire, grande nottata, premi a tutti, country, folk, jazz, pop, premi per musicisti, per tecnici del suono, autori, produttori, in tutto ci sono un'ottantina di categorie, un mercato, quello americano, da 7 miliardi di dollari, il primo mercato del mondo, che tra l'altro è tornato a crescere di poco, più 0,2%, ma è la prima volta che si cresce dal 1999, una gran quantità di occupati, un settore importante. Pensate a Nashville, che è una delle capitali della musica leggera, ci lavorano 27.000 persone. In totale in America ci saranno oltre 100.000 occupati tra tecnici del suono, turnisti, cantautori, cantanti, autori, eccetera, eccetera. Ma veniamo alla serata. Drunk in Love, con questa canzone Jay-Z e Beyoncé hanno aperto la serata allo Staples Center di Los Angeles. Tra l'altro, poi più tardi nella serata, Jay-Z ha conquistato un Grammy, un grammofono d'oro, per la sua collaborazione con Justin Timberlake nel singolo rap Holy Grail. Ha salutato la moglie, ha ringraziato il signore che gliel'ha fatta incontrare, ha dedicato questo premio e questa canzone alla figlia Blue Ivy di 2 anni che ha avuto appunto con Jay-Z. Arriviamo a L'Amplen, il caso di dirlo, L'Amplen, perché i Daft Punk, un duo francese, ha vinto addirittura 3 premi a questa 56esima edizione dei Grammy Awards, intanto con Get Lucky, ma hanno vinto anche come miglior album dell'anno con Random Access Memories e con un altro album, Dance. Thrift Shop di Macklemore e Ryan Lewis, è una delle canzoni che ha fatto anche questa il pieno, ha vinto un premio, hanno vinto Macklemore e Ryan Lewis con il loro album The Heist, La Rapina, questo duo hip hop, ha vinto come migliore nuova band, ha conquistato 3 riconoscimenti nella categoria rap, migliore performance, migliore canzone con Thrift Shop, migliore album con The Heist, e poi c'è un'altra canzone famosa loro, Same Love, hanno fatto una performance a un certo punto ed è stata, come dire, una performance molto toccante perché è avvenuta in parallelo a un evento clou della serata. Era stato programmato il matrimonio, o meglio lo scambio di anelli, perché in realtà non c'era nessuno che celebrasse davvero il matrimonio, per 34 coppie, Same Love è una canzone rap che continua a ripetere matrimoni gay, matrimoni omosessuali e così via, così via. Ecco, 34 coppie, grandi applausi, Macklemore che cantava e dopodiché in chiusura è arrivata sul palco Madonna, anche lei a celebrare questi matrimoni, aveva un abito rigorosamente bianco, aveva uno strano bastone, come fosse un bastone con un pomello, e ha interpretato uno dei suoi classici in nome di queste coppie che si sono sposate, Open Your Heart. America 24. Non so se l'avete riconosciuto o se avete riconosciuto la voce, ma è Paul McCartney. Un altro evento chiave nella serata di ieri è stata una performance di Paul McCartney con Ringo Starr. Sono i due superstiti della band inglese, si sono riuniti, è stata una riunione eccezionale. Ringo Starr, tra l'altro, aveva cantato poco prima una delle sue canzoni, ma per l'occasione ha fatto il batterista mentre McCartney suonava questa nuova canzone, appunto, Queenie Eye. E McCartney, devo dire, è intramontabile, perché poi è salito sul palco anche per ritirare il premio come migliore canzone rock dell'anno, che l'ha vinta insieme a Dave Grohl, e un singolo, Cut Me Some Slack è il titolo, e la storia l'hanno raccontata ritirando il premio, devo dire molto divertente, interessante, perché a un certo punto Grohl chiama Paul McCartney e gli dice: senti, ma vieni da noi un po' in studio che vorremmo provare. Dave Grohl, ve lo ricordo, era qui in Nirvana, e si sono messi a fare una jam session. A un certo punto Paul McCartney dice: ma no, guarda, qui stiamo facendo cose vecchie, dobbiamo fare qualche cosa di nuovo. E Grohl ha raccontato: in 2 ore abbiamo scritto questa canzone che ha vinto questo premio. Eccoci qua. Non poteva mancare il country, quello che vi ho fatto ascoltare è un estratto di Same Trailer, Different Park, che ha vinto come migliore canzone per il country western, pensate, ha persino battuto Taylor Swift, e questa canzone, appunto, Merry Go Round, è così, è una classica, classicissima canzone country western. Casey Musgraves è un personaggio, devo dire, fantastico, super texana, proprio tipico del Texas e del country. Ma il momento country non si è fermato alla consegna del premio, perché c'è stato poi un entusiasmo esploso in sala quando a un certo punto sono apparsi sul palco il leggendario Willie Nelson, anziano ultra settantenne, con Kris Kristofferson, Merle Haggard e Blake Shelton, che è un altro country western più giovane, e hanno interpretato una serie di classici del country, una specie di medley, dai Highwaymen a Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys, e Taylor Swift, romantica, era in piedi, estasiata, che si muoveva, li guardava, dopo che lei stessa aveva fatto una straordinaria performance di All Too Well, una canzone molto aggressiva, con la quale lei, come molti altri interpreti, ieri sera, devo dire, ci hanno fatto sognare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Beh, tra i premi di ieri sera avremmo potuto citarne molti altri, in particolare c'è stata una canzone, migliore canzone pop, che è stata vinta dalla 17enne neozelandese Lord per il suo Royals. Ma io vorrei dedicare la canzone del giorno, siamo arrivati alla canzone del giorno, la voglio dedicare ai Daft Punk e soprattutto a Giorgio Moroder con la canzone che ha composto coi Daft Punk, Giorgio Moroder Song. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, Laura Faggin in assistenza e in redazione, come sempre a tutta la redazione di Radio 24. La nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Ci sentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno e tra un attimo invece col GR.